It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il livello di panico è sempre altissimo, Kappa e Drago raccolgono informazioni sul malfamato quartiere della Cloaca Maxima. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Dai allora, pollastre, coraggio, andiamo. Vabbè, ma scusa, segui, ma, sì, ma segui un po' le sbattimento, abbi un po' di fiducia. Cosa c'è? Ma sei cosa sicuro? C'è? Sei sicuro che andare a spacciare la paroxetina con questo pollo in sbattimento alla Cloaca Maxima sia una cosa saggia? Guarda, sì, che è pericoloso. Ma sì, ma tu fai finta di niente. Però i quartieri malfamati, lo sanno tutti, sono il luogo ideale per barattare qualcosa in cambio della via di fuga. È lì che troveremo qualcuno che ci fa uscire di qui, fidati. A me risulta che i quartieri malfamati siano il luogo ideale per barattare qualcosa in cambio di una coltellata. Però se lo dici tu. Non ti preoccupare. Allora, andiamo, no? Dai, sì, pollo sì, sbattimento, vabbè, su, vabbè. Tu cerca di non starmi davanti che ti pestiamo a ogni passo. Un attimo solo, eh. Cosa c'è? Aspettate un attimo. Ma sì, siamo fermi. No, prima di entrare nella Cloaca Maxima, che è un rischio, è meglio che vi racconti qualcosa per mettervi un po' in guardia. Sì, per metterci un po' vabbè, di paura. Raccontaci vabbè. Qualcosa. La Cloaca Maxima è il luogo più pericoloso della fabbrica. È un'ala dismessa dove non va mai nessuno. E a poco poco i polli più malavitosi l'hanno popolato e adesso è un pululare di attività illecite, dal gioco d'azzardo fino al pollicidio. Una notte nella Cloaca Maxima può bastarti per il resto della vita, se quando esci sei ancora vivo ovviamente, altrimenti può bastare anche per l'eternità. La persona che dobbiamo cercare noi è una specie di leggenda vivente, si chiama Puppo. Puppo? Ma che nome è Puppo? Puppo è il nome di Puppo, no? Sì, vabbè, ma chi è sto Puppo? È un pollo panciuto che fa il pusher. Ah, e tu vendi la paroxetina a un pusher? Eh sì, beh, anche i pusher hanno i loro pusher, no? Se no... Ho capito, e quando andiamo da questo Puppo? Aspetta un attimo che adesso dorme. Ah, Puppo dorme, ma che pusher è che dorme? Puppo dorme, dorme quasi sempre. Ma perché? Ma come se... non ho capito. Puppo ha avuto due infarti. Il medico gli ha detto di prendersela un attimo comoda, no? Ma scusa, Puppo, la leggenda vivente, ha avuto due infarti, è un infartato. Eh beh, perché? C'è qualcosa da ridere? C'è no, da ridere? No, infatti, no, raga, non c'è da ridere, dai, per favore, abbi rispetto, va su. Bene. Allora, cosa facciamo? Beh, allora, adesso calma prima di tutto. Calma, sì, ma siamo calmi, siamo fermi, Pollo, anche tu, calma, questa roba della calma. Perché lui che ha paura. Adesso, no, adesso appena si sveglia mi richiama, gli ho mandato un messaggino. Voi state lì tranquilli, che adesso è presto e adesso è solo mezzanotte, sempre mezzanotte, Mezzanotte è il punto di non ritorno. Quel che è fatto, ora serve un nuovo giorno per ciascuno di noi. It is later than you think. Un mese, forse più, forse due, chiuso in questa fabbrica di polli. E non polli qualsiasi, no? Polli con forte dipendenza da paroxetina. Polli con forte dipendenza da paroxetina che sognano di far rinascere il terrorismo in fabbrica. E poi, un mese, forse più, forse due, svuotato di ogni istinto predatorio, pacificato con il mondo, specie quello femminile. E questa insopportabile serenità tipica del gatto castrato. Miau. Pronto? Sono l'amministratore delegato, chiede scaffarti? Scaffarti ha fatto come avevo ordinato? Sì? Bene. Allora mi conferma che le pillole di paroxetina date al pollo in spattimento in cambio dello scioglimento del pugno del pollo sono in realtà pillole di carbonato, no? Bene, ok, scaffarti. Beh, mi congratulo con lei, guardi, questa volta non la licenzio. la fabbrica dei polli. Certo, Pollo, che la tua è stata una metamorfosi stupefacente. Stupefacente. Nel vero senso del termine. Sì. Da terrorista rosso a spacciatore di droga in un niente, così. Dipende, no? Dal punto di vista. Di chi? Cosa stai dicendo? È più o meno la stessa cosa, no? Ma in che senso è la stessa cosa? Terrorista rosso? Vabbè, l'importante è creare illegalità e fermento. L'importante è quello, dai. Tenere alto il livello di ansia per gli altri. E il livello di paroxetina per me. Sì, ma scusa, ma con la paroxetina si rilassano tutti, il livello d'ansia si affloscia, quindi... Sì, ma ho capito, ma la paroxetina è comunque un virus del sistema, no? Attenzione che parla Tony Negri qui, Ascolta, è vero che la paroxetina rilassa. Sì. Però serve anche per tenere sotto controllo migliaia di polli. Quindi il velo d'ansia si abbassa a punto tale che i polli cominciano a essere manovrabili. Dei polli dipendenti dalla paroxetina come se tu non fossi uno di loro. Ha senso. La differenza è una, che io il becco ce l'ho. Io ce l'ho il becco. Comunque io poi smetto quando voglio. La vita è dura, ti fa paura. Alla mattina, paroxetina, inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina paroxetina. Pollo in sbattimento, scusa, ma perché tu vuoi vendere la paroxetina? Non puoi tenertela. E intanto lo sai che tra qualche giorno ti pentirai di averla venduta e ti dirai: ah, se avessi ancora la mia riserva di paroxetina, sono in sbattimento. No. Io adesso ne ho una quantità industriale. Guarda che corrotto. Mi sono tenuto una scorta che mi basta per un po'. E il resto lo capitalizzo, no? Senti, ma... Senti, proprio domanda facile. Come l'hai avuta tutta questa paroxetina? Questo solo grazie alla mia attività di Volta Gabbana. Io credevo l'aveste capito, no? Ho capito, ormai è una professione per te, attività di Volta Gabbana. Sì, ma perché c'è sempre un momento in cui voltare Gabbana rende anche qualcosa in termini, come dire, economici, no? Basta cogliere il momento giusto. Ma devo insegnarvele io certe cose. Ma da che pollaio venite? And the animals suffer. Ma allora, Puppo ti chiama o no, con i suoi due infarti lì? Si starà riposando, no? Adesso, si sarà svegliato adesso e starà trattando male la sua compagna, no? No, come? Cos'è che starà facendo? Puppo vive in un pollaio disastrato, insieme a una giovane dolce gallinella. E la tratta male? Malissimo. Ma come? Perché? Proprio un pusher, Mica uno stupidone romantico. Vabbè, se sei un pusher devi trattare male la tua compagna. Mi sembra logico, no? Se no che pusher sei, scusa. Vabbè, questa è logica da Pollo in sbattimento. Ma cosa fa Puppo? Cosa le dice? Ma non lo so. Tipo, non so, lei è tutta gentile, che le porta la colazione, le prepara le dosi già tutte belle pronte, le svolazza sempre intorno, tutta premurosa, e lui le parla solo a monosillabi. E poi quando è incazzato le tira pure qualche beccata. Perché lui il becco ce l'ha. Puppo? Ma Puppo ha un becco di dimensioni epiche. Lui è il più grande becco della fabbrica, Io a confronto sono un mini dotato. Lui è il John Holmes di questo luogo infame. Il telefonino, Pollo, magari è lui, magari è Puppo. Sì, è lui. È Puppo? È lui. Allora, siete pronti? Pronti per il viaggio? Sarà mica così lungo. Poi insomma, io il John Holmes della fabbrica di polli me lo sarei anche evitato. Dai, Drago, smettila di lamentarti. Dai, su, andiamo, la cloaca massima ci aspetta. E anche Puppo. Che cosa succederà adesso? Riusciranno Kappa, Drago e il Pollo in sbattimento a spacciare paroxetina nella cloaca massima, riportando a casa le piume intatte? Lo saprete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo malavitoso allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Bye.